E partiamo con la No, cosa nuova succede? edizione di ginnastica per sale d'attesa, puntata a questo punto 6, che è 6 per finta perché ci sono state 6 puntate nel primo blocco, ma per un totale di 5 spicchietti raggiunti e quindi noi ripartiamo da dove siamo partiti. E a questo punto lanciamo la sigla con mio grande entusiasmo e quasi commozione. Stiamo parlando dei Fugazzi. La prima, tutto sommato, una sigla potrebbe non durare 2 minuti e 40, ma perché togliersi la gioia di ascoltare per l'ennesima volta Waiting Room dei Fugazzi, che come sappiamo dal primo giro hanno iniziato a custodire l'inizio quantomeno di questa trasmissione. Trasmissione che, come dicevo, si chiama Ginnastica per sale d'attesa. Una trasmissione che adesso vi vado velocissimamente a spiegare. Adesso nel frattempo sto un po' svarionando perché in cuffia ho me stessa, ma con un paio di secondi di ritardo. Quindi immaginate la difficoltà di avere me e me, ma 2 secondi dopo. Cioè bellissimo, non so, però tant'è. Niente, quindi dicevamo, siccome è un bel po' che manchiamo su questi schermi e su questi teleschermi, visto che per il momento è ancora per non tantissimo, questa è una web radio, e allora effettivamente sugli schermi si può dire, anche se sono gli schermi dei vostri telefoni e quelli del vostro computer, ma comunque tant'è. Per chi si fosse perso la prima stagione, diciamo che oramai affonda le origini qualche periodo fa, vorrei spiegarvi ciò che è questa trasmissione, che è fondamentalmente un grosso ricettacolo di boiate date fornite dell'argite un pochino alla volta da me medesima, un programma che vorrebbe per una volta fare dell'approfondimento non tanto su qualcosa di utile che potrà servirvi nel resto della vostra vita, quanto al contrario qualcosa di totalmente irrilevante, qualcosa che potevate tranquillamente fare a meno di sapere, ma perché levarsi il piacere di saperlo a questo punto? E considerato che tutto quello che si fa nell'ultimo ventennio è buono solo se curriculabile, noi che ci siamo rotti i maroni delle cose utili passiamo all'inutile per il gusto di sapere delle cose che non ci serviranno a niente. La trasmissione di cui stiamo parlando cercherà di non rubarvi molto tempo oggi. Nello specifico, come si dice, la trasmissione è diciamo un grosso afflato musicale, e quindi per vostra fortuna parlerò anche pochino. Ci tenevo però a richiamare il testimonial che era già arrivato nella primissima puntata di questo della prima stagione, il nostro testimonial di fiducia, che ci dice che cosa ne pensa di questa puntata. E spero che lo faccia a breve, perché è piccola però è caratteristica, è bella, è sempre bella. Insomma, avete capito, questa trasmissione è piccola ma caratteristica, ed effettivamente siamo arrivati a questo punto, possiamo veramente dire di che cosa parliamo, ma soprattutto ci terrei a fare notare che effettivamente questa trasmissione nello specifico ha intenzione di ripartire da dove era prima. Lo fa perché effettivamente, come sa bene Alan Parrish, le partite non possono essere interrotte, e quindi come nella giungla si dovrà stare finché un 5-8 non compare, altrettanto noi torniamo dopo una lunghissima pausa, nel senso che l'ultima volta che eravamo andati in onda eravamo io e il compare Pulsi Fratamo, ed era il 20 novembre del 2020, e quindi se ginnastica per sale d'attesa è fondamentalmente una colossale partita Trivial Pursuit, siamo rimasti con lo spicchio scoperto, e lo spicchio scoperto è quello fucsia. Questo perché nel corso delle precedenti puntate, per tutti coloro, per quei pochissimi di voi che se le saranno perse, siamo finiti man mano sulle caselle marroni parlando di enantiosemie, quelle gialle con la guerra d'Algeri, quella arancione con l'Hula Hoop, il verde l'abbiamo fatta in compagnia di Greta parlando di vongole e bivalvi, e poi ci siamo fermati effettivamente un paio di puntate su quella azzurra perché c'era tanto da dire, appunto con Jacopo, con Pulsar, col dottor Jacopo Pulsar, e ci siamo soffermati appunto un pochino a parlare di memoria ed identità. Quindi tenete conto che insomma ve le siete perse, ma potreste tranquillamente e serenamente recuperarle, sentitevi pure liberi. Sono sul sito di archive.org, che ospita un sacco delle cosine che facciamo, e anche su quello di ZAM, dove potete ascoltare sia la diretta che le puntate che abbiamo fatto nel corso dell'ultimo periodo. Tra l'altro il 20 novembre 2020 va da sé che era un momento storico anche molto diverso, eravamo alla seconda ondata, mentre invece oggi al momento siamo qua tranquilli, e quindi giustamente per vostra grande fortuna possiamo passare veramente all'argomento della puntata. Per introdurlo, appunto, noi quindi siamo sulla casella fucsia, stiamo recuperando lo spicchietto dedicato a spettacolo società, e parliamo in questo caso di un evento musicale che avrebbe dovuto rimanere nella storia, e diciamo che a suo modo l'ha fatto, forse non nella maniera in cui avrebbero voluto gli organizzatori. A questo punto però io vi faccio sentire come ne sono venuta a conoscenza, nel senso che c'è su un disco, che è il disco che si chiama Bondo Bondo della banda Bardot, c'è una traccia che si chiama Riassunto, e su questa traccia a un certo punto compare un audio, che è un audio che arriva evidentemente da una registrazione live. Io all'epoca non sapevo cosa fosse, ma sono andata a cercarmelo, ed effettivamente è veramente notevole. Io per introdurre questo evento lo introduco direttamente con questa voce, che è quella del cantante dei Rolling Stones, che appunto parla durante la data del 4 dicembre del 1969. A questo punto ce l'ascoltiamo e poi torniamo. People, I mean, who's fighting what for? Who's fighting and what for? Why are we fighting? Why are we fighting? We don't want to fight. Come on. Do we want? Who wants to fight? Hey, hey, people, sisters. Brothers and sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just cool out. Will you cool out, everybody? I know. Everybody be cool now, come on. E questa era il riassunto della banda Bardot, che effettivamente mandava in onda una voce abbastanza in sbattimento. La voce per l'appunto è quella del cantante dei Rolling Stones, ed effettivamente il contesto in cui viene registrato questo audio è l'Altamont Free Concert, il concerto gratuito di Altamont, per l'appunto festival rock tenutosi in California il 6 dicembre del 1969 all'Altamont Raceway Park, situato tra le cittadine di Tracy e di Livermore nella contea di Alameda, diciamo nella zona di Oakland. Per chi non avesse in mente, stiamo parlando della California e delle, diciamo, dei dintorni più o meno immediati di San Francisco. Un concerto a cui hanno assistito 300.000 persone e che doveva essere fondamentalmente la parte 2 del Festival di Woodstock, festival che si è tenuto a Bethel nello stadio di New York a metà agosto, quindi meno di 4 mesi prima. A questo punto, quattro mesi dopo, appunto, i Rolling Stones decidono di organizzare un festival gratuito sulla costa ovest degli Stati Uniti, quindi concludendo il loro tour americano sul versante opposto di Woodstock, ma con una sorta di contraltare che doveva chiudere con gran lustro un anno abbastanza spaziale per quanto riguarda la storia della musica. Effettivamente loro lo chiamano proprio A Kind of Woodstock West, quindi una specie di Woodstock sulla costa ovest. A questo concerto prendono parte Santana, Jefferson Airplane, The Flying Burrito Brothers e Crosby, Stills, Nash & Young. Dovevano partecipare in realtà anche Grateful Dead, ma la presenza diciamo viene bloccata dal fatto che il gruppo decide di non esibirsi. Adesso scopriamo come mai. Allora, prima di tutto, come nasce? Nel senso che, diciamo, la storia di questo festival ha una storia travagliatissima fin dal principio. Il primo spazio all'interno del quale si doveva trovare sarebbe stato il campo di pratica della San Jose State University. San Jose State University, che aveva di recente evidentemente all'epoca dei fatti, ospitato un festival gratuito all'aperto di 3 giorni con 52 band e 80.000 partecipanti. Quindi questa era la prima zona designata per il concerto che però appunto viene spostato perché il festival di cui stavamo parlando, quindi questo con le 52 band, aveva creato una serie di danni enormi all'università e quindi appunto la proprietà aveva chiesto alla Dirty Cheap Production, la casa discografica, di aiutare a proteggere di nuovo la proprietà per consentire appunto a tutti questi grupponi di esibirsi, ma alla fine le condizioni erano tali per cui questa prima opzione salta. A questo punto passiamo alla seconda opzione. Seconda opzione è un altro posto veramente notevole, il Golden Gate Park, che è un po', per chi non lo conoscesse, il Central Park di San Francisco, che in realtà è ben più grosso del Central Park. Che cosa succede? Succede che in una qualche maniera ci sono tutta una serie di sbattimenti anche nella ridente Frisco, per una serie di motivi, il primo dei quali ha a che fare con tutta una serie appunto di grossi eventi che avevano coinvolti la città, ma come vedremo anche con tutta una serie di problemi di ordine pubblico. Mi sono dimenticata di dire che in realtà a dividersi, come dire, l'idea di questo festival sono due supergruppi. Secondo il Spencer Dryan dei Jefferson Airplane, l'idea arriva da lui e dal suo compagno di band quando discutono, insomma, della messa in scena di un concerto gratuito, tenendo subito in considerazione, tirando subito in ballo i Rolling Stones, che all'epoca, sostiene Dryden, sono la più grande band rock and roll del mondo e insomma con cui volevano condividere la scena di San Francisco, e a sua volta invece i Rolling Stones avevano tutta una serie di altre intenzioni a fare questo concerto. In particolare, quali sono le intenzioni? Diciamo che i Rolling Stones si vogliono smarcare un po' da tutta una serie di critiche che avevano ricevuto nel precedente anno, nel senso che il loro tour americano del 69 aveva registrato dei prezzi di biglietti assurdamente alti, e quindi loro, come tutta risposta, hanno detto facciamo questo per chiudere questo concerto, insomma, in barba alle critiche, facciamo un super concerto gratuito a San Francisco, dicevamo. Quindi opzione 1 è la prima ad essere balzata, l'opzione 2 è questo Golden Gate Park. Anche in questo caso problema, nel senso che al Kezar Stadium, che è appunto uno stadio che si trova all'interno di questo grosso park, è prevista una partita di football, nello specifico per le persone a cui interessasse, Chicago Bears San Francisco 49ers. Appunto, il Cesar Park è al Golden Gate Park. Problema di ordine pubblico, niente permessi per il concerto. Come dicevamo, in realtà tutte queste strettezze avevano anche a che fare con tutta una serie di altri problemi di ordine pubblico che coinvolgevano la città di San Francisco. Nel 69 in particolare c'è una forte comunità hippie, che è di Haight Ashbury, un quartiere di San Francisco, Frisco per gli amici, e appunto che tuttora ho visto, insomma, adesso non ci sono mai stata, però per chiunque ci sia stato magari mi potrà dare conferma o meno, c'è una forte comunità che è talmente forte che, insomma, dal 69 a questa parte mantiene comunque del radicamento sul territorio. Conflitti fra hippie e polizia ce ne sono parecchi, e polizia, dipartimenti ed istituzioni, insomma, iniziano a manifestare ostruzionismo e cercano di evitare che un evento così grosso porti scompiglio e scalpore all'interno della cittadina, per modo di dire, di San Francisco. Comunque, tant'è, in una maniera o nell'altra, anche l'opzione 2 salta. A questo punto ci si dirige verso l'opzione 3 e ci stiamo ovviamente avvicinando alla data. Teniamo conto che loro appunto avevano pensato a questa cosa dopo il festival di Woodstock, quindi comunque stiamo parlando di un festival che, nella migliore delle ipotesi, avrebbe avuto meno di 4 mesi di tempo, ma man mano ovviamente tutti questi sono settimane che vanno perse. Insomma, opzione numero 3, e finalmente qualcuno dice magari ci stiamo avvicinando, è il Sears Point Raceway, vicino a Sonoma, quindi in questo caso ci spostiamo a nord di San Francisco, e appunto l'opzione è questa Sears Point Raceway, che è una pista automobilistica formata da una complessa serie di curve che si snodano su e giù dalle colline per un dislivello totale di 50 metri circa. Posizione buona, le vie d'accesso sono ottime, il dislivello permette anche di radunare grandi masse, ed effettivamente già si pensa a come posizionare il palco in cima ad una di queste colline, in maniera proprio che il concerto fosse più che godibile. Ma ovviamente c'è di nuovo in questo caso la controversia riguarda il proprietario di Sears Point Filmsway, che è il proprietario anche di, appunto della pista automobilistica, il quale chiede ai Rolling Stones di anticipare un deposito di $100,000 dell'epoca, che comunque sono una bella botta, e più del 50% dei diritti di distribuzione del film che ne sarebbe eventualmente uscito. Ovviamente sono bei soldoni, e insomma dal fare un concerto gratuito a rischiare di andarci sotto è tutta un po' da vedere, e quindi il festival deve essere spostato ancora una volta. A questo punto siamo all'inizio di dicembre. I Jefferson Airplane sono in viaggio in Florida e credono che l'organizzazione del concerto stia procedendo ancora al Golden Gate Park. Nel frattempo sono già balzate altre, appunto, quella più un'altra opzione. Il 4 dicembre balza anche la terza opzione, e quindi ci ritroviamo veramente a 36 ore neanche dall'inizio del concerto, senza avere una location. A questo punto spunta fuori il Dick Carter, che è un grosso imprenditore, il quale offre il suo Altamont Speedway nella contea di dell'Alameda orientale, a est di Livermore. Di nuovo a questo punto ci siamo spostati nell'estremo est della città di San Francisco, insomma non vicinissimo, ma sempre in quella zona. A questo punto il concerto deve tenersi il 6 dicembre, la location viene attivata la notte di giovedì 4 dicembre, stiamo parlando veramente di poco più che 24 ore prima. Jefferson Airplane volano da Miami, volano via da Miami il 5 di dicembre. A questo punto ci sono diverse voci rispetto a questo, tendenzialmente tutti dicono che vengono presi da uno spirito di disperazione, e quindi in una qualche maniera sono costretti a ripiegare su questa opzione, però fondamentalmente non c'è nessun modo, non c'è nessun'altra via. Detto questo, Kantner appunto ricorda: non c'era modo di controllarlo, nessuna supervisione o ordine. Secondo Grace Leak le vibrazioni erano pessime, qualcosa era molto particolare, non particolarmente brutto, solo davvero peculiare. Era quel tipo di giornata nebbiosa, abrasiva e insicura. Mi aspettavo le vibrazioni amorevoli di Woodstock, ma non sarebbe arrivata a me. Questa era tutt'altra cosa. Effettivamente, come dire... Effettivamente, questo per dare una piccola scusante a queste persone, e in particolare a uno degli organizzatori del concerto, che diventerà un po' poi un trade union di tutta questa puntata, è Michael Lang, uno degli organizzatori di Woodstock, che già all'epoca aveva dovuto cambiare da un momento all'altro la location di Woodstock, diciamo del festival di Woodstock appunto del 69, spostandola da Wallkill a New York a Bethel. Stiamo parlando comunque di non un grosso spostamento, ma già all'epoca era stato uno spostamento abbastanza dell'ultimo minuto, ed era obbligatorio sorvolare il sito in elicottero. Insomma, questo Michael Lang, adesso poi scopriremo un pezzettino alla volta chi è, un giovanissimo boccoloso che aveva già dato prova delle sue doti di organizzazione al festival dell'agosto dello stesso anno, e che quindi di tutta la risposta insomma viene chiamato anche in questo caso. A questo punto io smetto di parlare, perché sto parlando veramente da parecchio, lo faccio dando la voce, e questo sarà un po' il... come dire, quello che succederà per tutto il resto della puntata, agli artisti che si sono avvicendati sul palco di Altamont, e lo faccio in particolare partendo, diciamo, scandendolo in ordine cronologico. Quindi ad aprire il live c'è Santana, o meglio i Santana, perché c'è Carlos Santana e tutta la sua band, e in particolare ci ascoltiamo Soul Sacrifice. Lo facciamo fondamentalmente a partire da Soul Sacrifice, anche se appunto taglieremo un pezzettino che è solo di applausi fondamentalmente, e a questo punto ci riapprocciamo Thank you. parte di buco proprio per... la Soul Sacrifice di Santana, appunto, e l'audio quello registrato durante il concerto, così come saranno poi tutti gli altri che sentiremo. Appunto, Santana aprirà lo spettacolo, a cui seguiranno diversi altri. Direi che nel frattempo noi proseguiamo sulla genesi di questo evento, che ha tantissimo da dire, e man mano, un pezzettino alla volta, ci sentiamo un po' tutti. Allora, dicevamo, la questione fondamentale, diciamo, che caratterizzerà questo evento musicale è legato alla sicurezza. In particolare, appunto, siamo rimasti al giorno prima, fondamentalmente alla notte del 4 di dicembre, quando 300 membri della crew organizzano lo smontaggio e lo spostamento di tutto il materiale a più o meno 100 km di distanza nel corso della notte. Tutto vuol dire tutto: palco, luci, impianti, eccetera eccetera. Vuol dire non tutto, viceversa, perché il trasloco frettoloso fa sì che ci siano tutta una serie di problemi logistici, in particolare la mancanza di strutture come servizi igienici portatili e tende mediche, che rimangono fondamentalmente all'opzione numero 3, quindi al Sears Point. Questo vuol dire un sacco di cose, vuol dire evidentemente problemi logistici, vuol dire tra l'altro anche dei problemi in termini di parcheggio e di viabilità, nel senso che le vie prescelte in questo caso non sono utili, non c'è neanche un parcheggio, quindi a un certo punto le macchine, man mano che arrivano, soprattutto diciamo i primi ad arrivare, iniziano a parcheggiare un po' a casaccio in giro per delle aree non precisamente idonee. Tra le altre cose, questo rapido spostamento crea un problema per quanto riguarda la scenografia, nel senso che a Sears Point abbiamo detto che c'è una piccola altura e il palco è sistemato, o quantomeno è previsto in cima a quest'altura, e al contrario ad Altamont al palco succede il contrario, quindi si trova in fondo ad un pendio. Ora, il problema qual è? È che il palco è alto 1 metro, 39 pollici, e evidentemente laddove il palco si situa in cima ad una collina, un metro è più che sufficiente. Viceversa, in un punto in cui sono nel punto più basso del pendio, fondamentalmente la pressione del pubblico diventa totale e intorno a tutto il palco. Siccome di tempo, come abbiamo visto, non ce n'è neanche un po', il palco non può essere cambiato. Viceversa, non possono anche essere utilizzate le impalcature più classiche, e quindi iniziano a lavorare con una serie di metodi, diciamo, molto più vecchi. Quindi nello specifico iniziano a montare insieme tutta una serie di pali, non precisamente delle traversine, iniziano a montare le cose con dei tubi. E anche per quanto riguarda come dire, i set luci e i set la regia, eccetera eccetera, se guardate nei video, e adesso man mano un pezzettino alla volta ve li consiglio perché sono veramente notevoli, vedete proprio, adesso non vi dico delle cassapanche levate in aria tipo con delle corde, ma il livello più o meno è questo, un po' ve lo dovete immaginare tipo film sulle con grossi villaggi sospesi in mezzo alla foresta con delle cose che pendono, più o meno il livello è questo. Evidentemente nessuno, né i responsabili, diciamo, né il direttore di scena dei Rolling Stones, che è Chipmunk, sono particolarmente entusiasti di questa cosa, ma evidentemente non ci sono veramente altre possibilità. Ora, questa cosa del palco, che sembra relativamente poco importante, porta ad una delle decisioni più importanti di questa giornata, nel senso che il palco è basso e c'è bisogno di qualcuno che tenga il pubblico giù dal palco. A chi viene chiesto? Viene chiesto ai membri del club motociclistico Hells Angel, guidato dal capo della sezione di Oakland, che si chiama Ralph Sonny Barger, a cui viene chiesto fondamentalmente di circondare il palco per fornire sicurezza. Ora, siccome fra le altre cose, diciamo, oltre ai numerosi documentari relativi ad Altamont, ce n'è anche uno relativo agli Hells Angel, io ho recuperato un mini cut per quanto riguarda la voce, appunto, di Sonny Barger, il quale racconta brevissimamente ci dà una piccolissima un piccolissimo hint su quello che loro poi ritengono che sia come andata. Sono appunto 23 secondi, sono in inglese, ci tenevo a farvelo sentire dalla sua voce che in realtà non trovate nel migliore delle maniere, perché effettivamente il concerto è del 69, ma questo documentario è del 2003, e nel frattempo il buon Ralph Sonny Barger ha avuto tutta una serie di problemi con la gola, e quindi lo sentite con una voce particolare, come chiamano così, però insomma, ecco. It was a fiasco. My personal opinion, it was 100% the Stones' fault. I think there was like an hour and a half late coming onto the stage, and when they come out, they search the stage. To do that, they had to come over the top of our pipes. When they done that, we jumped off the stage and beat them back. Ecco, allora, per chi non avesse né percepito le parole, visto che il tono di voce è anche altrettanto difficilino, a un certo punto, appunto, lui dice: è tutta colpa dei Rolling Stones, fu tutta colpa loro, ci avevano messo lì a controllare il palco, a un certo punto tutta sta gente è arrivata, è iniziata ad imbruttirci, e noi siamo scese and we beat them back, e gliele abbiamo tornate. Ora, questa questione è abbastanza dirimente, nel senso che per l'appunto cosa succede, quantomeno secondo alcuni resoconti, poi evidentemente ognuno ha la sua versione, questo vale per qualsiasi storia, dalle più piccole alle più grandi, e quindi anche in questo caso. Quindi gli Hells Angels vengono assunti come sicurezza dalla direzione dei Rolling Stones su raccomandazione apparente dei Grateful Dead e dei Jefferson Airplane, che avevano in precedenza utilizzato gli Angels per la loro sicurezza durante precedenti, appunto, esibizioni. fondamentalmente in realtà questa assunzione come corpo di sicurezza non trova precisamente delle conferme, nel senso che effettivamente parrebbe che lo stesso Sam Cutler, che è il road manager appunto dei Rolling Stones, sostiene, ecco, quello che dice lui è: l'unico accordo che ci sia mai stato, insomma, gli Angels si sarebbero assicurati che nessuno manomettesse i generatori, ma questa era la portata. Nessuno ha mai detto saranno le forze di polizia o qualcosa del genere. Queste sono tutte sciocchezze. Che cosa succede? Cioè, insomma, Cutler dice che l'accordo prevede che la band debba condividere il costo della birra che si sarebbero bevuti, nel senso che agli Ice Angels viene chiesto di controllare il palco, fondamentalmente, quindi controllare che non ci siano queste grosse invasioni di palco, con un palco da un metro di altezza, che insomma, per chi è andato a vedere un concerto di più di 8 persone sa che non è una bella idea. E quindi, nella versione più accreditata, questi Hells Angels vengono chiamati a difendere il palco, fondamentalmente sedendosi sugli angoli e mantenendo le persone giù. Tutto questo non, diciamo, pagati, perché appunto quando Cutler chiede loro come vogliono essere pagati, William, che all'epoca appunto Sweet William Frisch, Angel Bill Sweet William Frisch, membro degli Hells Angels dell'epoca, dice appunto: quando ci ha chiesto come volevamo essere pagati, noi gli abbiamo risposto: ci piace la birra. Quindi fondamentalmente, insomma, devono sedersi sul bordo del palco, bere birra e assicurarsi che non ci siano omicidi o stupri. Questo è diciamo l'idea. In realtà, appunto, Cutler poi riparla di questa cosa e dice: guarda, stavo parlando con loro perché ero interessato alla sicurezza della mia band, alla sicurezza di tutti. Del resto, nel paese dei ciechi, l'uomo con un occhio solo è re. Erano le uniche persone forti e unite. Dovevano proteggere il palco perché stava precipitando nel caos più assoluto. Chi l'avrebbe fermato? Quindi fondamentalmente, diciamo, vengono chiamate queste persone, pagati con birra, fondamentalmente per portare gli Stones e tenere le persone fuori dal palco. Il punto qual è? È che da una parte tutto il resto della sicurezza, quindi quello che avrebbe dovuto essere gestito al di fuori del palco, non era in mano a nessuno, perché come dicevamo non vengono chiamate, diciamo, non vengono modificati gli assetti, considerato il poco preavviso, e viceversa, che insomma gli Hells Angels non sono precisamente delle personcine a modino, ed effettivamente quello che succede poi ha abbastanza dell'incredibile. Fra le altre cose, tanto per dare, diciamo, delle voci esterne, una donna chiama il programma di radio che stava gestendo, diciamo, la trasmissione radiofonica del 7 dicembre, che parlava di questa cosa, e dice di avere chiamato, diciamo, di aver rivelato di aver visto almeno 5 scazzottate dal suo punto di osservazione vicino al palco, e che gli Angels erano coinvolte in ognuna di esse. Tra le altre cose, diceva che appunto avere gli Angels come sicurezza era sicuramente una mossa irresponsabile, perché tutti ne avevano paura, e che viceversa però un sacco di persone iniziano tendenzialmente ad avere un atteggiamento generalmente indifferente verso le persone che avevano evidentemente bisogno di aiuto, un po' perché avevano paura di essere picchiati, fondamentalmente, e che viceversa viene nuovamente tirato in ballo l'effetto spettatore, il bystander effect. Adesso io, prima di ripassare poi all'argomento successivo, ci tengo a raccontare questo piccolo, appunto, questo piccolo angolo della psicologia sociale, che è l'effetto, l'apatia dello spettatore o effetto e testimone, lo faccio proprio raccontando questo atteggiamento generale di indifferenza verso le persone che ne avevano chiaramente bisogno. Questa donna parla di ragazze trascinate sul palco per i capelli e ragazzi che stavano facendo un bad trip con l'acido e praticamente sono stati ed è stato calpestato dagli astanti, appunto, senza cadere troppo nel black e nel dark. Fondamentalmente l'effetto testimone, quindi l'apatia dello spettatore, è un fenomeno della psicologia sociale che si riferisce ai casi in cui gli individui non offrono alcun aiuto ad una persona in difficoltà perché sono presenti anche delle altre persone. Quindi fondamentalmente una situazione in cui la probabilità di intervento è inversamente correlata al numero degli spettatori. Di questa cosa ne abbiamo in mente sicuramente, ognuno in mente i suoi. Questo episodio rientra all'interno di un novero di altre centinaia di esempi come questo, insomma, penso che ce li abbiamo più o meno tutti in mente, ed effettivamente questo è quello che succede, o quantomeno è quello che sembrerebbe essere la premessa di questo festival. Tra le altre cose, pare che in realtà ci fossero centinaia di guardie di sicurezza professionale in borghese, chiamate e pagate dal proprietario dell'Altamont Speedway, che era questo Dick Carter, che si era palesato all'ultimo offrendo, come dire, la exit strategy per questo travagliato festival, il quale però, appunto, queste guardie di sicurezza sono in borghese, vengono identificate da degli insider in persone che indossano bottoni bianchi e che viceversa sono evidentemente pagate per proteggere la proprietà di Dick Carter piuttosto che per la sicurezza di benessere dei partecipanti al concerto. Effettivamente, e con questo poi passiamo allo stacco musicale successivo, diciamo, ci sono stati tutta una serie di problemi rispetto al fatto che da una parte i Rolling Stones potevano essere fuorviati appunto dalla loro esperienza con un contingente britannico di sedicenti Hells Angels, gruppo in realtà non fuori legge ma ammiratori dell'abbigliamento da motociclista americano, che avevano già fornito sicurezza non violenta ad un concerto gratuito degli Stones. In realtà Cutler dice che anche questa era una boiata, perché loro sapevano perfettamente chi erano. In particolare Rod Scully aveva spiegato agli Stones quali erano i veri Angels dopo aver visto un concerto ad Hyde Park. A questo punto io passerei nuovamente, mi sono portata veramente pure troppo, alla successiva canzone che dovrebbe riguardare, anche se qua non c'è scritto niente, ma dovrebbe esserlo, invece sì, un estratto dal live dei Jefferson Airplane. In particolare le due tracce sono delle super tracce, sono Greasy Air e White Rabbit. Il primo è un inno alle droghe, il secondo anche, nel senso che il White Rabbit nello specifico è diciamo un riferimento ad Alice nel Paese delle Meraviglie, ma anche un riferimento alla psichedelia, ed effettivamente questo brano sembra che sia stato scritto in meno di mezz'ora, totalmente sotto LSD. E quindi a questo punto noi ce l'ascoltiamo e passiamo poi al pezzettino successivo. Right, I'm sorry. Jefferson Airplane e la loro spazialissima White Rabbit, ed effettivamente anche loro salgono sul palco, in particolare salgono per secondi. A questo punto però raccontiamo quello che è il diciamo, per adesso siamo sempre nel pre, siamo nel pre, stiamo già entrando nel durante, ma a questo punto cerchiamo di capire quanto peggiora la situazione, perché può peggiorare? Ma certo che può, assolutamente sì, ed effettivamente lo fa. Innanzitutto, come abbiamo detto, la visibilità del palco è molto limitata, e quindi tutta una serie di persone iniziano a prendere assalto delle imparcature marcissime di audio e video di cui parlavamo prima. Qualcuno si appende per aria a tipo 20 metri d'altezza, qualcuno molto più serenamente, diciamo, si arrampica su delle torri di casse appoggiate per terra, tant'è che insomma c'è gente abbastanza dappertutto. Ora, il primo atto sul palco, che è appunto Santana, dà un'esibizione che tutto sommato va abbastanza bene. Gli Angels però già danno prova di essere leggermente agitati e violenti. In realtà altrettanto agitati danno prova di esserlo diciamo il pubblico, il quale insieme con i Jefferson Airplane e il loro come dire, stimoli all'utilizzo di sostanze di vario genere, psichedeliche, come dire, raccolgono l'invito dei Jefferson Airplanes e iniziano a essere completamente tutti fatti. Quindi, come dire, il documentario a cui facevo riferimento prima è anche piuttosto interessante, perché si vedono, come dire, questa popolazione psichedelica che inizia a ululare, a muoversi per terra in una maniera un po' strana, e abbraccia i vari giornalisti che gli si parano davanti. E effettivamente già il concerto di Santana, quindi il primo concerto, il primo pezzo di concerto che diciamo da cui abbiamo ascoltato Soul Sacrifice, effettivamente viene interrotto per una rissa direttamente sul palco. Angels bevono birra da tutto il giorno, diventano più che sbronzi, ed effettivamente anche la folla si inizia ad infastidire parecchio. A un certo punto una delle motociclette degli Hells Angels viene rovesciata dalla folla, non si capisce se accidentalmente oppure volontariamente. Comunque questa cosa diventa uno smacco insopportabile per i motociclisti, i quali diventano ancora più aggressivi, tanto da diventarlo anche nei confronti degli artisti. Ed effettivamente è il caso di uno degli artisti che fanno parte dei Jefferson Airplanes che abbiamo appena ascoltato, il quale cerca di scendere, anzi scende giù dal palco per cercare di risolvere il problema che si stava creando rispetto a questa motocicletta, se non fosse che gli Hells Angels lo prendono a pugni in testa e praticamente lo lasciano privo di sensi durante lo stesso set della loro band per terra fuori dal palco. A questo punto effettivamente i rimanenti membri dei Jefferson Airplanes addirittura li ringraziano sarcasticamente gli Angels, appunto, per aver messo fuori combattimento il loro cantante. E a questo punto inizia una discussione con il microfono fra uno degli Hells Angels e il appunto e il chitarrista dei Jefferson Airplane, Paul Kantner, tutto questo appunto sotto gli occhi di evidentemente tutti. Prosegue con il live, come sentiremo nel giro di poco, prosegue con un set dei Flying Burrito Brothers, che è un rock un po' più country, in cui pare che la folla stia cercando o comunque stia iniziando a calmarsi e quindi la situazione sembra un pochino migliorare. In realtà nel frattempo una cantante, che è la cantante degli Ace of Cups, che non si stava diciamo che non era uno dei gruppi previsti, ma che era lì, appunto era una rock band di San Francisco, viene colpita da una bottiglia di birra vuota lanciata dalla testa, lanciata dalla folla, e viene colpita in testa riportando una frattura al cranio. Stiamo parlando di una tizia incinta di 6 mesi, per dire quanto tranquilla è la situazione quando è nel momento di maggiore tranquillità. A questo punto si prosegue addirittura sempre peggio, perché durante il set successivo, che è quello di Crosby, Stills, Nash & Young, addirittura Stephen Stills, cioè appunto uno dei quattro, viene ripetutamente pugnalato ad una gamba con un raggio di una del, insomma, della, non, insomma, il raggio della moto, comunque. E quindi praticamente niente, lo ciapponano svariate volte e lui deve abbandonare il palco. A questo punto dovrebbero suonare i Grateful Dead dicono grazie mille, ma insomma come dire, noi in realtà in questa situazione non riusciamo a suonare, avremmo voluto, cioè proprio una dichiarazione del batterista dopo i precedenti incidenti, se vogliamo chiamarli così, che dice appunto avremmo voluto portare il nostro spirito e di fare sentire insomma lo spirito della musica dei Grateful Dead, ma abbiamo detto insomma no, così non si può fare, questo così non ce la sentiamo. La dichiarazione nello specifico finisce con "and we just said that this isn't a place for us", cioè questo non è un posto per noi. A questo punto cosa succede? Succede che c'è un buco vistosissimo nella scaletta, nel senso che metà dei live fino adesso si sono dovuti interrompere a metà strada, e viceversa il live successivo, quello di Crosby, Stills, Nash & Young, quello dei Grateful Dead, non salta direttamente del tutto, e a questo punto c'è uno fra i cantanti precedenti e i Rolling Stones a chiudere la serata di 3 ore e mezza, 4 ore, ed effettivamente loro salgono sul palco in prima serata quando l'atmosfera aveva preso una piega pessima, nel senso che nel frattempo passano le ore e in mezzo ci sono state 5.000 risse scoppiate da praticamente fra la folla, cioè la folla con la folla, la folla con i motociclisti, e insomma la situazione è veramente fuori controllo. Nello specifico, in realtà la situazione non è sempre stata drammatica, ma appunto anche quando arrivano i Rolling Stones, che stanno per esibirsi, arrivano con un elicottero, molto americana di arrivare con l'elicottero, ed effettivamente per esempio Mick Jagger, appena sceso dall'elicottero, anche di questo c'è appunto i video in diretta, diciamo i video in diretta, ovviamente non in diretta adesso, ma ci sono tutti i registrati della precedente direttamente dal 69, e effettivamente si vede questo gruppo, i Rolling Stones, che arrivano scendendo dall'elicottero, vengono accolti da una folla festante. Uno però invece tira un pugno in faccia a Mick Jagger, che appunto lo colpisce al naso, rischia di romperglielo, e gli grida appunto "ti odio". Nello specifico pare che la questione fosse che la sua fidanzata si era detta innamorata di lui, tant'è che i Rolling Stones aspettano appunto fino al tramonto per esibirsi. Non si capisce bene se sperando che a un certo punto la situazione rientri, o perché effettivamente, come hanno dichiarato loro, Bill Wyman aveva perso il viaggio in elicottero verso appunto la sede del concerto, tant'è che quando iniziano gli Stones ci sono 5.000 persone sotto il palco che vengono placcate veramente a fatica, mentre cercano di arrampicarsi su di esso. A questo punto noi, prima di arrivare, non voglio chiamarlo gran finale perché mi sembra veramente dark humor oltre ad ogni immaginazione plausibile, ma come dire, prima di arrivare effettivamente alla parte finale di questo racconto, ci ascoltiamo i Flying Burritos Brothers con la loro Six Days on the Road, i quali effettivamente sono, si presuppone essere, la parte più tranquilla del set, e a questo punto subito dopo insomma torniamo e raccontiamo la successiva pezza di storia. 1969 that we had. Let's have a party and let's have a good time. Flying Burritos Brothers. Woman that I used to see before, wife and kids are wound up and she's a running like never before. There's a speed trap ahead, all right, but I don't see a cop inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. I got 10 Ford gears and a Georgia overdrive. I'm taking little white pills and my eyes are open wide. Jimmy and wine, I've been passing everything inside. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Well, it seems like a year since I kissed my baby goodbye. I can have a lot of women, but I'm not like some of the guys. I can find one to hold me tight, but I can never make believe it's alright. 6 days on the road. Checking all down the line. I'm a little overweight and my load looks way behind. But nothing bothers me tonight. I can dart on the scale, alright. 6 days on the road and I'm gonna make it home tonight. Uno dei set più country, anzi forse l'unico set effettivamente country dell'evento di cui stiamo parlando, quindi l'Altamont Free Concert del 6 dicembre del 1969. E arriviamo in realtà al grosso motivo per cui tra gli altri viene ricordato questo evento. Nello specifico, l'evento è un episodio drammatico, nel senso che stiamo parlando di un omicidio, effettivamente. Che cosa succede? Succede che abbiamo detto appunto, Mick Jagger era già stato preso a pugni in faccia da un frequentatore dei concerti pochi secondi dopo essere uscito dal suo elicottero, e in realtà già all'inizio cerca tutto sommato di risistemare un pochino la situazione. cerca di risistemarla, e quindi invita ed esorta tutti un pochino a calmarsi e a non spingere. E effettivamente parte, insomma, in live lo sentiremo fra non tantissimo. Ci sono tutta una serie di interruzioni che il live deve subire, in particolare nel caso di Sympathy for the Devil, che è uno dei pezzi forse più noti di questa band. Quando scoppia una rissa enorme diciamo davanti alla folla in piedi al palco, e appunto l'audio che abbiamo, con cui abbiamo aperto questa puntata, arriva da lì. E effettivamente, nello specifico, Mick Jagger e i suoi Rolling Stones decidono comunque, dopo una lunga pausa e un altro appello alla calma, di riavviare la canzone, e continua il proprio set con, diciamo, un filino meno incidenti, fino all'inizio di Under My Thumb. Under My Thumb è una canzone all'interno della quale succede un mega dramma. Questo perché a un certo punto arriva un ragazzo afroamericano che si chiama Meredith Hunter, 18enne, che come gli altri cerca di mettersi su delle posizioni sopraelevate. Quindi, nello specifico, appunto, cerca di mettersi prima sulle casse, e poi tenta di salire sul palco a distanza di pochi istanti l'uno dagli altri, e a distanza di mediamente poco dal palco. E effettivamente, quando tenta di salire per la prima volta insieme ad altri, un Hells Angel che, come abbiamo già detto, ma ci tengo a specificarlo, non si dimostravano particolarmente, come dire, progressisti, anzi decisamente no, tant'è che un Hells Angel gli prende la testa e lo piglia a pugni. Ma lo piglia a pugni non vuol dire che lo piglia a pugni e lo lascia per terra. Lo piglia a pugni, lo lascia per terra, quando lui si rialza lo insegue tra la folla per riprenderlo a pugni. A questo punto appunto Hunter torna in zona palco, dove si trovava la sua fidanzata, che lo trova, insomma, lo trova in quelle condizioni, e gli prega di calmarsi e di tornare più indietro tra la folla con lei. Lui però è visibilmente infastidito, e a quel punto scompare, per poi ricomparire con in mano, in tasca, insomma visibile in una qualche maniera, una pistola. Tra l'altro, appunto, un revolver calibro 22 che si intravede dall'interno della sua giacca, che peraltro è super riconoscibile, perché appunto questo abito completo, camicia, giacca e pantaloni di questo verde lime brillante. Per cui niente, a un certo punto Alan Passaro degli Hells Angels vede Hunter con la pistola, sostiene di vederlo estrarre il revolver, e a quel punto estrae il coltello dalla cintura e praticamente lo carica da dietro, di lato, parando la pistola con la mano sinistra e pugnalandolo due volte con la mano destra, uccidendolo immediatamente. Questa scena è un'altra delle scene che chi sta filmando il concerto, questo lungo documentario, chi sta filmando il concerto riprende, nel senso che sta fotografando la folla. Sono questi due filmmaker, uno in piedi sul palco a fotografare la folla, l'altro in piedi su un autobus a fotografare quello che sta succedendo, ed effettivamente loro vedono questa situazione, ma nessuno di loro effettivamente sembra capire che, insomma, si sta effettivamente riprendendo un omicidio. Effettivamente si vede anche il revolver, effettivamente si vede l'attacco da dietro di Passaro, E in realtà non completamente, nel senso che si vede nel video due colpi inflitti da Passaro, in realtà poi nell'autopsia ne verranno dichiarati cinque, quindi evidentemente nella parte superiore della schiena, quindi diciamo immediatamente atti ad uccidere. A questo punto viene decretato che Passaro abbia agito per legittima difesa. Ovviamente i Rolling Stones si accorgono di questa cosa, o quantomeno non si accorgono di questa cosa, nei termini in cui si vedeva una colluttazione, ma ovviamente non si capisce immediatamente che si tratta di un accoltellamento. La canzone quindi prosegue, in realtà appunto a un certo punto si sente Jagger a metà della canzone fermarsi per chiamare nel suo microfono un medico, nel senso c'è un dottore, dice abbiamo davvero qualcuno ferito, qui c'è un dottore, ed effettivamente dopo pochi minuti la band riprende a suonare e alla fine completa il set. Nello specifico Alan Passaro fu in seguito scagionato appunto dall'accusa di omicidio volontario e gli viene dato legittima difesa. 15 anni dopo Passaro viene rinvenuto morto nel lago Henderson, sempre in California, con $10,000 dell'epoca nelle tasche. Di fatto pare che non ci sia nessuna correlazione con quello che è successo ad Altamont, perché pare che questa cosa avesse a che vedere con degli ingenti debiti di gioco che Passaro aveva sviluppato nel corso degli anni. Sì, nel 2003 in realtà c'è un secondo avvio di indagine che è durato più o meno 2 anni per indagare la possibilità che ci fosse un secondo motociclista coinvolto nell'accoltellamento, ma in realtà appunto vengono trovate insufficienti prove a supporto di tale ipotesi, e quindi è stato effettivamente archiviato il caso nel 25 maggio del 2005. A questo punto, prima di chiudere diciamo la parentesi Altamont, ci ascoltiamo diciamo coloro che hanno calcato il palco subito dopo i Flying Burritos Brothers, e quindi quelli che diciamo sono stati la parte prima di questa lunghissima pausa che ha dato poi tutta una serie di che ha creato tutta una serie di drammoni. In realtà qua c'è qualche problema, quindi sto cercando di capire se cosa succederà di questa traccia quando la metto, ma fingerò che sia tutto a posto. Vediamo cosa succede, perché secondo me sta succedendo qualcosa che non va. Vediamo, eccoci qui, adesso funziona, e quindi noi ci ascoltiamo Long Time Gone dei appunto di Crosby, Still, Nash and Young, e poi torniamo insomma con l'ultimo pezzettino su Altamont. speak out against the madman. Speak your mind, yes. Speak your mind, that is, if you still have the guts to dare. Queste tracce che arrivano tutte dal concerto live del 1969, che è un po' quello che è l'argomento di questa giornata. Effettivamente in questo caso siamo su Crosby, Stills, Nash & Young e la loro Long Time Gone. A questo punto siamo arrivati effettivamente all'ultimo segmento rispetto a questo concerto, che è quello che riguarda un po' il post concerto e quelle che sono state le reazioni ad Altamont, nel senso che se Woodstock è universalmente riconosciuto come un po' l'evento simbolo, l'apice della generazione del flower power, degli hippie, del mettete i fiori nei vostri cannoni, Altamont arriva soltanto 4 mesi dopo e segna nella retorica della cosiddetta controcultura la fine delle illusioni. Di fatto il critico di musica rock Chris Goh scrive nel 1972 una cosa abbastanza intelligente rispetto a questo, cioè che appunto gli scrittori si concentrano su Altamont non perché ha portato alla fine di un'era, ma perché ha fornito una metafora così complessa del modo in cui un'era è finita. Ed effettivamente dello stesso tenore sono tutta una serie di considerazioni che vengono fatte da Richard Brodia sul New Yorker nel 2015, quindi oramai parecchio tempo dopo, quando appunto lui dice che Altamont è stata un po' ciò che Altamont ha concluso è stata l'idea che, lasciati alla propria inclinazione e spogliati delle trappole del più ampio ordine sociale, i giovani della nuova generazione creeranno in qualche modo spontaneamente un ordine di base più alto, più gentile e amorevole. Quindi ciò che è morto ad Altamont è il sogno russoviano stesso. Ora, sono parole un po' forti, effettivamente, sicuramente a raccontare un po' di questo disastro c'è anche il fatto che ci sono voluti 7 mesi per organizzare Woodstock, con tutte le difficoltà che ci sono state anche in quel caso, ma insomma sono voluti 7 mesi per organizzare Woodstock e fondamentalmente 36 ore per organizzare questo, e forse tutto sommando anche qualche cosa questo voleva dire. Effettivamente quello che rimane poi il bilancio finale dell'evento è di circa 500.000 partecipanti, danni stimati intorno ai $400.000 del 69, 4 bambini nati sul posto, innumerevoli contusi e feriti anche gravi in risse continue che finirono per coinvolgere persino gli stessi artisti, e la bellezza di 4 morti, nel senso che se noi abbiamo raccontato la tragica storia di Meredith Hunter, in realtà ci sono anche 2 persone che muoiono schiacciate da autopirata che giustamente manco si fermano, e che è una 4ª persona che viene trovato morto annegato in un fosso, diciamo dopo esserci finito all'interno di un trip. Fondamentalmente questo è il drammatico bilancio. Sicuramente in generale, insomma, c'è grosso scoramento da parte di tutta una serie di persone. Peraltro il Rolling Stone, la rivista musicale, cioè diciamo pubblica un articolo di 14 pagine di 11 autori sull'evento nel numero del 21 gennaio del 1970, quindi diciamo meno di due mesi dopo, e le frasi che vengono raccolte all'interno di queste 14 pagine sono abbastanza dure. In particolare, a un certo punto uno scrittore dichiara: che emozione enorme sarebbe stata per un Angel prendere a calci i denti di Mick Jagger in gola. Ora, questo sicuramente, come dire, in generale vuol dire parecchio. Uno dei, diciamo, delle cose che rimane da questo festival di Altamont del 1969 è sicuramente questo film a cui abbiamo fatto riferimento più volte all'interno della puntata. Il film è Gimme Shelter, ed è appunto un docufilm che raccoglie tutto il girato dei due filmmaker di cui parlavamo prima, girato che effettivamente è veramente uno spaccato di una generazione, si trova su YouTube per chi volesse, è veramente notevole. Ci sono da alcuni dei rocker che hanno fatto la storia dell'ultimo secolo a gente sparellata che tocca la faccia dei giornalisti mentre dice cose senza senso, ha dei simpatici motociclisti che caricano la folla con mazze da baseball e mazze da biliardo, insomma un buon agglomerato di tutto quello che è successo. Tutta una serie di altri riferimenti sono stati diciamo realizzati nel corso della storia. Gli stessi Grateful Dead hanno scritto diverse canzoni in risposta o comunque su quello che è successo ad Altamont, su cui palco loro non hanno suonato. I Blue Oyster Cult hanno dedicato a questo una canzone. American Pie stessa, che insomma non credo che abbia particolare bisogno di essere presentata, visto che è diventata famosa per 12 generazioni, ha dei riferimenti relativi ad Altamont. Molto recentemente, nel gennaio del 2022, la Library of Congress ha condiviso una clip di 30 minuti di filmati silenziosi girati dal palco di Altamont. Tra le altre cose, appunto, in realtà ci sono anche delle visioni discordanti, nel senso che Keith Richards dei Rolling Stones in realtà poi si è espresso in maniera relativamente ottimistica rispetto allo spettacolo, definendolo fondamentalmente ben gestito, ma molte persone erano stanche e alcuni animi si sono logorati, ma comunque nel complesso è stato un buon concerto. Questo insomma è quello che ci si dice un po' rispetto a questo evento musicale che noi chiudiamo con un'altra traccia. Sinceramente mi sembrava brutto mettere Under My Thumb, nel senso che qui si sfiora veramente il voyeurismo. Mettiamo però Sympathy for the Devil. Anche in questo caso la versione è quella registrata dal palco, e anche in questo caso, adesso non la trovo più, tanto per cambiare, ma in realtà anche in questo caso a un certo punto ascolteremo appunto la prima parte e successivamente a un paio di minuti dall'inizio sentiremo proprio quando si blocca, e quindi a causa dei numerosi tafferugli tra il pubblico l'esecuzione della canzone viene fermata, e c'è appunto Jagger che invita alla calma sul palco. A questo punto ce l'ascoltiamo, poi torniamo, perché secondo me i parallelismi, come dire, si sprecano. In particolare ce ne due che mi piacerebbe sottoporvi, e quindi ci ascoltiamo appunto Sympathy for the Devil dei Rolling Stones, registrata sul palco durante l'esecuzione, e insomma ci ascoltiamo anche un pezzettino delle interruzioni live dal palco. A questo punto aspettiamo che ce arrivano qui, vediamo un attimo. Thank you. people, sisters, brothers and sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just cool out. Ritorniamo alla prima cosa che abbiamo ascoltato. Non so se l'avete riconosciuto, però effettivamente già durante l'esecuzione ci sono stati un paio di hey angels, e nel frattempo appunto scoppia il... Ecco, nella canzone prima qualcuno aveva interrotto, diciamo si sente del panico nella folla perché qualcuno urla al fuoco, nel frattempo appunto invece sta andando Sympathy for the Devil a distanza di 4 minuti e effettivamente gli angels stanno proseguendo con la loro follia. E a questo punto torniamo per un pezzettino, poi torniamo, diciamo, torniamo per il recupero di Sympathy for the Devil e poi torniamo qui. Everyone all right? Okay? All right? I think we're cool, we can go. We always have something very funny happens when we start that number. Sympathy for the Devil. Anche Mick Jagger, perché giustamente per par condicio interrompiamo anche lui. Intanto volevo sottolineare la presenza di palco che possono avere delle persone che riescono a recuperare così Sympathy for the Devil e contemporaneamente appunto quanta storia c'è dietro questa clip audio che compare anche questa su YouTube e probabilmente su un sacco di altre piattaforme open source. Io adesso sto citando questa, ma insomma lo faccio nel caso a qualcuno possa interessare, perché effettivamente il set di tutto questo concerto è di una potenza esagerata, al netto del fatto che appunto le cose sono andate come sono andate. Però sicuramente insomma il livello musicale è veramente altissimo. A questo punto io vorrei staccarmi dal livello musicale, o forse no, proprio per andare un po' nella direzione di questi di questa ultima clip, cioè quella sulle reazioni, nel senso che, come dire, è poi un po' facile fare la retorica rispetto al fatto che guarda, è già crollato il mito degli hippie, il mito della gente che si sa autogestire. È altrettanto vero che insomma se questa cosa è vera, è anche vera che speriamo di averne raccontate un po', insomma, di tutte quelle dinamiche che possono averla in una qualche maniera, se non giustificata, almeno spiegata in parte, che quindi non hanno necessariamente a che vedere con il pubblico, bensì con la gestione dell'organizzazione, e viceversa, secondo me, è utile tenerlo a mente per quello che succede negli anni successivi. In particolare io vorrei sottoporvi, poi veramente chiudiamo perché stiamo andando lunghi, altre due mini clip con altrettante canzoni che riguardano di nuovo Woodstock, ma questa volta non quella del 69, bensì quella le due edizioni del 94 e del 99. In particolare nel 94, appunto, anche per raccontare un po' come la legacy, cioè l'eredità e anche la narrazione di questi due eventi e di quelli precedenti hanno, come dire, dei controaltari che vengono spesso nascosti. Sicuramente non possiamo non citare Woodstock 94, festival musicale americano tenutosi appunto nel 94 per commemorare il 25esimo anniversario dell'originale festival di Woodstock del 69, appunto quello dell'agosto del 69, quindi non a Altamonte evidentemente, promosso come Two More Days of Peace and Music, con un poster molto recuperato dalla un po' dall'immaginario hippie, quindi con due colombe appollaiate sul collo di una chitarra elettrica invece che quella della colomba sulla chitarra acustica. Concerto previsto anch'esso per agosto, stiamo parlando del 12, 13 e 14 di agosto, biglietti che costano $135 l'uno, quindi tanto per iniziare passiamo da un concerto gratuito ad una ad una società e ad una cultura musicale che non prevede più fetish del concerto gratuito, e anzi non si fa particolari problemi ad alzare in maniera notevole il costo del biglietto. Tempo caldo e secco venerdì, quindi il primo giorno, ma nel pomeriggio di sabato iniziano le tempeste, e a partire da questo momento praticamente le piogge trasformano buona parte della location in un enorme campo di fango. Questo succede sempre nello stato di New York, a Winston Farm, a circa 160 km da New York City, e a 70 miglia, quindi 110 km di distanza da Bethel, che appunto era il luogo originale, diciamo il luogo del festival originale. Innanzitutto in questo caso vengono venduti 164.000 biglietti, e tuttavia la folla viene stimata intorno ai 550.000. Questo perché la dimensione della folla era più grande di quella prevista dagli organizzatori del concerto, e la seconda notte molte delle strategie, delle policy dell'evento rispetto alla logistica erano fondamentalmente inapplicabili, per cui appunto quando i partecipanti arrivavano, uscivano, tornavano al sito, la politica ufficiale del limitava l'ingresso di scorte, di cibo, bevande e soprattutto alcolici. Quindi veniva fondamentalmente tolto ognuno di queste cose dalle borse, dagli zaini dei partecipanti. Tuttavia viceversa, come dire, a un certo punto inizia uno sfondamento abbastanza di massa, quindi effettivamente non solo, visto che alcune delle recensioni, buona parte delle recensioni erano gestite da delle catene, non solo era facile per i partecipanti con biglietti rimboscarsi dentro con birra e altri oggetti vietati, ma entrano dentro effettivamente un botto di gente, scavalco libero e gratuito, ed effettivamente noi non possiamo che essere entusiasti di questa cosa, soprattutto perché in generale comunque il personale di sicurezza, insomma, non è riuscito a continuare a monitorare in modo ragionevole il numero crescente di persone, e contemporaneamente devo dire che non ci sono stati grossissimi problemi di ordine pubblico, quindi evidentemente, come dire, dell'autogestione in questo caso. C'è stata una buona prova tutto sommato, differentemente da quanto non si possa dire della organizzazione logistica, aperta parentesi, e di nuovo qui torniamo, siamo sempre con Lang come organizzatore, quindi sempre la stessa persona che ha messo in piedi Woodstock 69 e ha dato una mano consistente nella gestione dell'Altamont Free Concert. Ci sono tutta una serie di aneddotiche relative a questo festival, fra cui il fatto che per esempio il cantante Jesse James Dupri ha portato ha iniziato è salito sul palco col whisky e l'ha versato sulla folla, ha iniziato effettivamente a fare un set abbastanza pazzo, a un certo punto addirittura ha dato fuoco a uno sgabello sul palco e l'ha tagliato con una motosega, se non fosse che insomma gli a un certo punto si è anche tagliato, quindi la sicurezza ha trascinato fuori dal palco. Fra le altre cose, per esempio, c'è la performance di Aphex Twin che viene interrotta proprio scollegando i cavi dal palco, come abbiamo sognato di sempre di fare noi anche un sacco di altre volte, questa volta però per avere firmato con un nome falso su un contratto che avrebbe fatto perdere i diritti di Polygram sulla sua esibizione, e quindi giustamente loro hanno detto: se non possiamo guadagnarci dei soldi, allora tu non suoni. Viceversa, effettivamente buona parte della fama di Woodstock 94 viene associata a Madstock 94, per l'appunto un nome che gli viene rifilato da Mad, che vuol dire fango. Questo proprio perché a un certo punto arrivano queste tempeste che riempiono di fango completamente tutto la platea e in generale tutta la location. Qualcuno la prende peggio, qualcuno la prende meglio. In particolare i Primus hanno una canzone che si chiama My Name is Mud, che sembra fatta apposta, il mio nome è fango, ed effettivamente è una canzone che sembra fatta apposta. Il pubblico risponde colpendo a palle di fango la band, la quale però appunto non la prende particolarmente bene, si offende e addirittura qualcuno, il cantante bassista appunto della formazione, conclude informando la folla, cioè appunto conclude con una frase un po' sarcastica, dice: sapete, quando lanciate le cose sul palco è un segno di genitali piccoli e insignificanti. Questo insomma la prende bene. Viceversa però invece a prenderla bene è sono i Green Day, che la prendono in maniera molto più sportiva, i quali durante appunto una loro canzone che è Paper Lanterns, che arriva dallo Slappy EP del 1991, addirittura iniziano loro una lotta nel fango, cioè Billy Joe Armstrong durante la canzone prende a palle di fango gli astanti sia della sua formazione che fra il pubblico. A questo punto noi tra l'altro in tutto questo appunto c'è un altro documentario anche in questo caso che racconta queste pazze giornate di fango, e a un certo punto uno degli aneddoti prevede che il bassista dei Green Day, venendo scambiato appunto per uno dei fan che saltava sul palco, è stato colpito da non ho capito bene da che cosa, da una guardia di sicurezza, facendogli saltare un dente che rimane poi praticamente lì sul palco a disposizione. A questo punto noi, per celebrare i Green Day e il loro grande spirito giocoso, mettiamo proprio Paper Lanterns, questa volta non nella versione diciamo live ma nella versione dell'EP, appunto dell'EP Slappy del 1991, e torniamo per l'ultimo piccolo capitolo di questa puntata. Such an endless dreary time, a time of hopes and happiness that had you on my mind. These days are gone. think about you. Think about you. Ed ecco, torniamo qui per l'ultima, questa volta veramente, clip della puntata di oggi. Siamo andati veramente lunghissimi, ma non potevamo che concludere in questo modo, nel senso che l'ultimo capitolo di cui mi piacerebbe parlare, sempre in termini di legacy e, come dire, di eventi che hanno fatto la storia, anche se in questo caso, pur essendo molto più vicini diciamo in termini di tempo, è una storia che onestamente non ho conosciuto fino a poco tempo fa, perché Netflix ha fatto uscire un documentario che secondo me è bellissimo. Io invito tutti quanti a vederlo, perché mi ha fatto pensare veramente per giorni e giorni, che si chiama Trainwreck Woodstock 99, ed è una docuserie di Netflix divisa su 3 puntate. Parliamo invece in questo caso appunto di Woodstock 99 come ultimo capitolo della saga, in questo caso veramente, nel senso che l'esperienza va talmente male che si decide insomma di interrompere così, perché nulla sta andando bene. Nuovamente l'organizzatore rimane lo stesso, e effettivamente in questo caso come dire, si è fatto molto a parlare rispetto a quanto Woodstock 69 e Woodstock 99 avessero delle caratteristiche molto diverse. Perché? Perché il tentativo in questo caso è quello di, appunto, di nuovo insistere su quelli che sono i nuovi artisti della controcultura statunitense. Quindi vengono invitati, insomma, nel giro di 3 giorni una quantità allucinante di artisti della Madonna. Ne citeremo solo alcuni, ma veramente i nomi sono veramente uno più potente dell'altro, e quelli che non sono conosciuti andrebbero conosciuti per lo più. È un'esperienza che si conclude molto male, e che nella retorica degli Stati Uniti raccontano, insomma, una generazione degli anni 90 che un po' non ce la fa. Sicuramente alcuni degli episodi che hanno luogo all'interno di questa 3 giorni sono veramente drammatici, in particolare per quanto riguarda le violenze di genere, che come dire, si sprecano in un ambiente che è per lo più quello del appunto, siamo nuovamente un po' nel maschio bianco etero cis wave. Ed effettivamente, come dire, si registrano tutta una serie di episodi drammatici che non cito necessariamente in questo momento, ma che sono ben raccontati all'interno di questo documentario. In questo caso i problemi organizzativi sono altrettanto notevoli, nel senso che forse un po' meno spiegabili, se non attraverso il ricorso all'avidità umana, come dire, nel senso che il sito che viene scelto è un ex base militare, quindi una pista di atterraggio fondamentalmente, che non è fornita di alberi, perché evidentemente gli aerei hanno bisogno di atterrare in una zona piatta e desolata, ed effettivamente questa è la condizione che ci si trova, in cui ci si trova come spettatore, cioè delle lunghissime camminate sotto il sole, perché i palchi fra est e ovest erano distanti 3,7 km, quindi veramente 40 minuti a piedi praticamente. Non ci sono spazi verdi, non ci sono zone d'ombra nell'area riservata ai camper, non c'è la possibilità di montare le tende in una zona più riparata, tant'è che moltissimi si accampano sull'asfalto rovente. Di nuovo faccio riferimento all'avidità, perché è una delle parole che verranno scritte sui pochi pannelli rimasti a disposizione alla fine della Tre Giorni, che vengono completamente devastati e demoliti dagli astanti. Grid effettivamente compare più volte. Grid, cioè avidità, è un po' quello che sinceramente vediamo spingere nell'organizzazione di questo concerto, organizzazione che prevede dei prezzi allucinanti di ingresso. Addirittura tutto il live era stato venduto a MTV con la formula pay per view, quindi anche da casa per vederlo bisognava pagare bei soldoni. Una volta dentro, di nuovo, gli spettatori venivano accolti da stand che vendevano bevande e cibo a prezzi molto alti. Si parla di una bottiglietta d'acqua minerale, d'acqua naturale a $4, evidentemente di nuovo al netto del fatto che agli spettatori venivano requisiti tutti i beni anche di prima necessità all'ingresso. E come dire, l'alternativa, l'unica alternativa per bere, rinfrescarsi, dissettarsi nel corso di questo fondamentalmente esperienza desertica, più che lisergica, in questo caso era desertica, insomma l'unica alternativa sono questi lavandini dei bagni, che sono decisamente sottodimensionati rispetto alle folle presenti e che oltretutto nel giro di poco diventano malfunzionanti o rotti dai precedenti utilizzatori. Di fatto questa è una delle immagini altrettanto drammatiche del concerto, nel senso che man mano che l'acqua viene a calare e le temperature toccano livelli sempre più alti, quindi si parla di 39 gradi a un certo punto fissi, e la situazione diventa sempre più ingestibile, perché evidentemente, come dire, lo stato di salute anche dei presenti va peggiorando visibilmente, e quindi a un certo punto il pubblico inizia a strattonare i lavandini e i tubi che portano l'acqua in giro per il campo, fondamentalmente distruggendoli e facendo partire delle grosse fontane d'acqua che sembravano essere un rimedio alla loro sete, e che creano di fatto di nuovo un agglomerato enorme di fango, che sembra un po' la cifra comune delle ultime due edizioni di Woodstock. Di fatto il fango delle tempeste del Mudstock, quindi del Woodstock 94, non ha niente a che vedere con quello del 99, che invece è costituito fondamentalmente da acque sporche, acque nere, e quindi i liquami, diciamo, sono fra i protagonisti di questa edizione, per cui tantissimi spettatori registrano, insomma, tutta una serie di intossicazioni da acqua, afte, salmonellosi, eccetera eccetera. Fra le altre cose, per l'appunto, ci sono tutta una serie di incidenti dentro e fuori dal palco. Alcuni come dire, vedono coinvolti gli artisti, altri decisamente meno. Sicuramente una delle prime scene più notevoli è durante l'esibizione dei Limp Bizkit. In particolare c'è una canzone dei Limp Bizkit che si chiama Break Stuff, quindi rompi le cose, e durante questa canzone viene praticamente demolito una buona parte delle scenografie del festival. La parte è effettivamente addirittura come dire, non solo alcuni di questi artisti non invitano alla calma, ma addirittura si divertono insieme con i ragazzi, tant'è che appunto durante Break Stuff iniziano a comparire questi grossi pannelli di compensato che arrivano appunto dalle scenografie che ricoprivano, insomma, un po' i tubi innocenti delle scenografie del festival. E addirittura c'è questa c'è questo surf umano sulla, sulla folla, insomma questo crowd surf direttamente con una tavola sotto i piedi, a cui partecipa anche Durst, appunto Fred Durst, cantante della band. Durante il corso delle cose successive la situazione va peggiorando, fino a che di nuovo a un certo punto si blocca la musica, sembra che da un momento all'altro debba arrivare un super ospite, che però a quanto pare insomma è solo inventato dagli organizzatori per mantenere buone le persone. E a questo punto arriviamo un po' al dramma finale di questa edizione, che prevede insomma, dopo questa lunghissima pausa in cui il pubblico è particolarmente furibondo, la distribuzione di candele che avrebbero dovuto essere la coreografia durante la canzone Under the Bridge dei Red Hot Chili Peppers, che andavano a chiudere il concerto. Evidentemente, come dire, la folla comincia ad accendere le candele, e a un certo punto queste candele vengono utilizzate per appiccare le fiamme a tutto quello che rimaneva, diciamo, di alcuni delle torri scenografiche e di audio che erano previste per il festival, che appunto finisce con spazzatura da ogni parte, liquami orribili e nuvole di fumo che si alzano dagli ultimi pezzi rimasti in piedi delle strutture del festival. Di tutto questo viene fatta una narrazione molto drammatica in termini di tutto quello che, come dire, il giovane pubblico americano, di tutti quei valori che si erano persi da una generazione ad un'altra. Credo che, senza volere mettere della moralità da nessuna parte, tantomeno in ginnastica per sale d'attesa, che insomma non mi sembra proprio il caso, forse tutto sommato, raccontandoci i preludi e quello che un po' viene fuori appunto da Train Wreck, Woodstock 99, che vi invito a guardare su Netflix per quelli che ce l'hanno, per chi non ce l'ha insomma si recupera in una qualche maniera, voi sapete bene che le vie dell'internet sono infinite, però insomma all'interno di tutto questo, come dire, raccontare solo una parte ci permette di raccontare un po' quello che vogliamo, e forse tutto sommato andrebbe anche un po' ricontestualizzato. Faccio riferimento, fra le altre cose, ad un aneddoto, ad un episodio qualsiasi, che però secondo me racconta un pochino di questa storia, che è una scena di questo documentario in cui una vecchia volontaria già del Woodstock 69 prova a cercare di rimediare al disagio totale, insomma, che è composto anche e soprattutto di spazzatura, nel senso che ci sono questi giganteschi spiazzi infiniti strapieni di persone in cui non si può stare tranquilli, non si può ripigliarsi un pochino, non si può bere e mangiare se non con un altissimo prezzo, nonostante già quello pagato per l'ingresso, eccetera eccetera, e una simpatica volontaria, appunto sperando di recuperare un po' dei fasti del Woodstock 69, chiede agli astanti di contribuire a sistemare lo sporco facendo appunto una raccolta di rifiuti, richiesta a cui i partecipanti, come dire, a torto a ragione, dicono che giustamente loro con questa cosa non hanno niente a che vedere, e come dire, se i prezzi erano così alti era evidente che si sarebbe dovuto prevedere anche che qualcuno si occupasse di questo. Detto questo, appunto, la butto lì perché non voglio perdere ulteriore tempo, e anzi con questa direi che vi saluto anche questa simpatica zanzara che mi sta ronzando addosso da 7 ore. Chiudiamo, proprio per non dare nessun tipo di limite allo show, con Break Stuff dei Limp Bizkit, che è proprio la canzone, diciamo, che su cui si vede Fred Durst surfare sulla folla insieme ai Vandali. Ovviamente non vedete le virgolette che sto facendo con le mani, però insomma si possono più o meno utilizzare a seconda dei punti di vista. intervista. Con questo noi ci salutiamo, ci rivediamo, spero fra 2 settimane a questo punto, con una nuova puntata di Ginnastica per Sale d'Attesa. Ciao! Hey man! Hey, let me ask you a personal question. How many people here really like NSYNC? Perfect. Perfect. How many people here ever woke up one morning and just decided it wasn't one of those days and you're gonna break some shit? It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit, let shit slip. Or you'll be leaving with a fat lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit. It's just one of those days. Feel like a freight train. First one to the plane, leaves with a punch thing. Say it right, I'm a maniac. You better watch your back, cause I'm fucking up your program. And you feel stuck up. You just locked up. That's the line to get fucked up. Your best bet is to stay away, motherfucker. It's just one of those days. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit. Let shit slip. Or you'll be leaving with a bad lip. It's all about the he said, she said bullshit. I think you better quit talking that shit, punk. So come and get it. To reach deep down inside and take all that negative energy, all that negative energy, and let that shit out of your fucking system. You got girl problems, you got boy problems, you got parent problems, you got boss problems, you got job problems, you got a problem with me, you got a problem with yourself. It's time to take all that negative energy and put it the fuck out. You feel me, Woodstock? All right, let's bring it out. When this song kicks in, I want you to fucking kick in. You got it? I feel like shit. My suggestion is to keep your distance, cause right now I'm dangerous. We've all felt like shit and been treated like shit. All those motherfuckers who wanna step up, I hope you know a pack of chainsaws.